La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, l'ora di cinema settimanale di Radio 24. Settimana così a livello attrattivo, un grosso film, un grosso budget, quello di John Carter, film disneyano, di fantascienza, un po' di Asia con A Simple Life, molta Italia di quella un po' di genere, un po' da B-movie per intenderci, e soprattutto un po' di cose da dire e da raccontare. Eventi, festival, un grande personaggio come John Belushi che ci ha lasciato 30 anni fa. Parleremo di tutto questo nella prossima ora, anzi, condensiamo tutti i contenuti della puntata nei nostri titoli di testa. Un soldato della guerra civile americana si addormenta in una grotta e si sveglia su Marte, in mezzo a creature mostruose. È la trama di John Carter, il colossal disneyano da 250 milioni di dollari che arriva ora nelle sale italiane. La strage di Castel Volturno rivive nelle immagini di Labà, Educazione criminale. Il film di Guido Lombardi segue le mosse del giovane immigrato Yusuf e della sua voglia di riscatto. Leone del futuro per la migliore opera prima a Venezia. Parte il Bergamo Film Meeting, 9 giorni di grande cinema tra concorso retrospettive sul noir e sull'immagine della donna nel cinema degli anni 70. Non mancheranno una proiezione notturna della versione integrale di Shining e l'omaggio al regista Fernando León de Araona. 30 anni fa, il 5 marzo 1982, moriva a Los Angeles John Belushi. Cosa rimane del grande mattatore del Saturday Night Live e dei suoi film? In quale pellicola possiamo riconoscerne meglio la sfaccettata personalità? E che film avrebbe fatto se non fosse mancato così presto? Ne parliamo alla Rosa Purpurea. Va bene, questi i contenuti allora della puntata della Rosa Purpurea. Partiamo subito, occupiamoci di cinema italiano in apertura, perché come dicevo ci sono 3 film italiani che escono questa settimana, forse per vicende distributive e anche per lo strepitoso successo che sta ottenendo il film di Carlo Verdone, che è partito veramente alla grande, in testa alla classifica con 3 milioni di euro incassati nei primi 3 giorni e poi con incassi che sono cresciuti nel corso della settimana. Poi l'aggiornamento l'avremo la prossima. Insomma, questo Posto in Piedi Paradiso sembra aver fatto quasi un po' terra bruciata intorno, qualcuno forse si è anche pensato di non mettere un film altrettanto grosso qui vicino, anche se poi settimana prossima arriverà quello di Ozpetek, che è anche a suo modo molto atteso. E allora arriva invece un cinema italiano un po' alternativo, come dicevamo prima. Noi ne vogliamo parlare con il nostro Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi e che saluto. Ciao Boris. Ciao Franco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dicevamo cinema di genere, cinema un po' B-movie, cinema dove le idee devono funzionare perché di soldi magari non ce n'è tantissimi. 2 di questi film tra l'altro arrivano dalla mostra del cinema di Venezia. Vorrei partire con l'arrivo di Wang. È un curioso esperimento di film di fantascienza, però molto terrena, molto terrestre, all'italiana. L'arrivo di Wang, la storia dell'arrivo nella nostra Italia, probabilmente nella nostra Roma, ma anche se poi il film si svolge tutto quasi tutto in una sorta di safe house dove c'è questo interrogatorio. Insomma, una giovane ragazza, interprete di cinese, chiamata per una traduzione urgentissima e si troverà di fronte un agente segreto, più o meno segreto, Ennio Fantastichini, che sta interrogando un fantomatico signor Wang che si rivelerà essere un extraterrestre. Allora sentiamo la clip e poi ne parliamo con Boris. È un lavoro di traduzione simultanea. Dobbiamo fare delle domande ad una persona che parla solo cinese. Preferiremo la massima segretezza possibile. Anche guardare solo in faccia il nostro signor Wang la metterà in una posizione molto difficile. Ni hao, Wang Xianxiang. Non ti fidare. Cosa state cercando di fare? Ma siete impazziti! Continuare a lavorare al buio per me è impossibile. È pronta a pagarne le conseguenze. Allora Boris, so che non abbiamo un parere analogo su questo film, però ben venga, però voglio sentire le tue ragioni del sì. Insomma, a te questo film è piaciuto? Io ne sono entusiasta, devo essere sincero. Diciamo che la definizione migliore l'ha data uno dei protagonisti, che secondo me in questo film dà una delle sue migliori interpretazioni, che è Ennio Fantastichini. L'ha definito fantascienza da camera. Non siamo un cinema da grandi budget, allora che cosa fanno i manetti? Usano i pochi effetti speciali ben fatti per il finale. E poi creano un thriller psicologico alla 24, per intenderci, all'interno di una sala per interrogatori in cui c'è Stefano Curti, appunto Ennio Fantastichini, che è un commissario, se vogliamo, alla volonté, duro non molto puro, e c'è Francesca Cutti che interpreta il cinese, che invece è un po' radical chic, pensa che il diverso sia migliore solo in quanto diverso. E che cosa fanno i Manetti? Usano la fantascienza come metafora del reale per raccontare i pregiudizi positivi e negativi di cui siamo schiavi, dal buonismo al cattivismo. Secondo me tutto viene poi in 80 minuti abbastanza serrati. I Manetti, a mio parere, sono tra i migliori registi che abbiamo, sempre costretti anche da se stessi a lavorare con budget bassi. Secondo me è un piccolo gioiello del cinema di genere, non solo italiano, che riesce ad utilizzare tutti i trucchi della fantascienza a proprio favore, riuscendo a trasformare anche le debolezze in pregio. Insomma, non sono molte le copie in cui è distribuito, ma almeno io personalmente consiglio di vederlo, perché un film così in Italia non si fa mai. Ma i film vanno sempre visti, questa è una premessa, anche quelli su cui i critici vi dicono di no. Spiego le ragioni del mio no. L'operazione mi è molto simpatica, mi è stata molto simpatica anche a Venezia. Secondo me quello che non funziona invece in questo film sono, da una parte, le recitazioni troppo stereotipate, troppo simboliche per diventare personaggi a tutto tondo, troppo forzate per essere vere. Parlo di quella di Fantastichini e anche di quella della ragazza che interpreta appunto Gaia. Entrano appunto nello stereotipo più che nella recitazione vera. E in un dramma da camera, perché questa è fantascienza da camera, come ha detto giustamente Boris, questa cosa si fa un po' sentire alla lunga, anche se non alla lunghissima, perché il film, come abbiamo detto, dura circa 80 minuti. L'altra cosa è che effettivamente caratteri e anche il personaggio, cioè questo concetto di base per cui appunto il cinese, la traduttrice di cinese è chiamata a tradurre l'alieno perché è la lingua più aliena e più vicina, insomma, ecco, ci sono una serie di assunti che sono francamente un po' banali e che secondo me non fanno decollare un film che è nelle premesse invece un'operazione simpatica e che sicuramente i Manetti Bros portano avanti con quel poco che c'è a livello economico per cercare di renderla più verosimile possibile. Comunque, lo ripeto, io i film li consiglio sempre di vederli, quelli belli, quelli brutti, quelli che sono piaciuti a noi o quelli che non sono piaciuti, perché comunque solo lì si sviluppa il giudizio critico. Abbiamo un minuto per parlare di un altro film di genere italiano, anche se è un titolo straniero, un titolo inglese, che si chiama Color from the Dark. Boris, un minuto per raccontare questo film. Color from the Dark è un horror fatto da un regista italiano che, come dire, ha un suo seguito all'estero, soprattutto nei paesi anglofoni. Anche qui l'horror è fatto con un budget basso, racconta una storia abbastanza paranoica. Non mi sento di raccontare la trama, perché spesso e volentieri, secondo me, il cinema di genere in Italia viene ucciso proprio dal racconto troppo eccessivo che noi critici facciamo della trama, e che rende agli spettatori molto difficile il racconto. Quindi sfrutto la brevità a cui siamo costretti proprio per dirvi che c'è sicuramente del talento. Mi sembra un'operazione però molto più acerba rispetto a quella dei Manetti, che ha bisogno sicuramente di crescere di più, insomma. L'ABA, l'educazione criminale, strage di Castelvolturno 2008, la ricorderete, un comando di camorristi che entra in una specie di opificio tessile pieno di ragazzi africani immigrati, sparano all'impazzata un centinaio di proiettili, sei morti e altri feriti. E il film ci porta dentro questa storia e ci racconta le vicende di Yusuf, un giovane immigrato, e conosciamo i perché del suo venire in Italia, i perché, le promesse che stanno dietro questo viaggio della speranza, i rischi di una vita clandestina. Allora ascoltiamo una clip di Labà, poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Noi non sappiamo che cosa noi dobbiamo fare. Oh sì, non hai paura, tu ne avevi nessuno, che se cosa c'è un primo minuto, casa si perde, sta facendo un bel minuto da 5 soldi. Su qualcuno che non scagava una creatura, sulla moda non la cuoia niente di cervello, ma è una cosa che la risolvi, non è problema lo vuoi, cosa che ci sta dicendo? No, signor Pepe, no, francamente non va bene così, noi siamo stanchi, adesso a noi serve armi e possiamo difenderci. Ma se vuoi tenere il cervello? No, ma tu che vai trovare che bene all'esercito, che era venire e finirmi fa lavorare voi. Signor Pepe, ha ammasciato due la panese e il bafi. Il manuale è merda, chi cazzo è stato per questa panese? Ma che conto una pure, facendo conto che non è molto ricciuto. La panese è una cosa, poi si è un'altra cosa. Gli africani e poi gli ebrei. E allora con questa promessa, insomma, si chiude la clip. Ma avete sentito la grandissima intensità drammatica. Tra l'altro dietro c'è una produzione partenopea veramente molto dinamica. Questo è La Ba, grandissime lodi della critica alla Mostra del Cinema di Venezia, un film di grandissima forza espressiva ed emotiva. Boris. Sì, quella, la produzione di cui parli è Figli del Bronx di Gaetano Di Vaio, che qui sono con la Minerva dei fratelli Curti. E quello c'è una garanzia, se vogliamo, della continuità col discorso che facevamo prima, perché è un film sicuramente di cinema civile, ma è anche un film di genere, diciamo una sorta di Gomorra nera, nel senso di colore della pelle, noir, oppure se volessimo insomma fare una battuta, una sorta di Castelvolturno, di alla polizia non può sparare, perché quello a cui noi ci rivolgiamo è una realtà anche un po' diversa da quella che poi avrebbe provocato la strage del 2008 che tu citavi. Il film viene scritto prima in gran parte, poi chiaramente viene condizionato da quell'avvenimento. Quello che noi troviamo però è un gangster movie di chi arriva in Italia cercando fortuna, convinto di poter trovare una vita finalmente migliore, finalmente con più opportunità, e scopre invece che la propria unica opportunità o è un'onestà molto faticosa e dolorosa, oppure una disonestà molto facile. E ovviamente sono pochi ad avere la forza morale, caratteriale e anche fisica di mantenere la barra dritta, e si sceglie quell'altra strada, e il resto è proprio, se vogliamo, un gangster movie con svolte di sceneggiatura e colpi di scena anche molto importanti, alcuni purtroppo presi dalla realtà, come diciamo quella della strage finale, e che a mio parere Guido Lombardi riesce con grande, chi regista, riesce con grande semplicità e grande linearità a portare avanti, anche grazie a questi attori non professionisti che fanno il loro, e anche al contraltare femminile, essere liscia, che dà una profondità anche di sentimenti alla storia, che pur mantenendo quella semplicità di racconto dà al film una struttura, una profondità importante, e probabilmente gli sono valse poi il Leone del Futuro di Venezia, cioè il premio come migliore opera prima. E allora, questo era La Ba, questa era l'ampia parentesi iniziale sul cinema italiano, tre film italiani in sala in questo fine settimana. Adesso invece passiamo da tutt'altra parte del mondo e anche da tutt'altro budget, 250 milioni di dollari per realizzare John Carter, produzione disneyana, come dicevamo in apertura, un film di fantascienza molto particolare che racconta di un soldato che si risveglia su Marte dopo essersi praticamente addormentato in guerra sulla Terra. Ecco, la premessa ovviamente vuole molta, come dire, molta partecipazione da parte del pubblico, e però lì si troverà ad avere a che fare con esseri, diciamo, davvero extraterrestri, davvero supernaturali. Sentiamo una clip e poi ne parliamo. Questo è un Bent? No, una scimmia bianca. Via! Tars! Alzati! Tars! Dammi la mano, Tars! Hai quattro mani, dammene una! Padre! Boris, una prima domanda che mi mette, ce n'era proprio bisogno, però insomma, al di là di questo, cosa aggiunge anche al panorama dell'immaginario, al di là della vicenda, insomma, divertente in principio, in premessa, però insomma, cosa aggiunge? Perché quando poi fai un film da 250 milioni, al di là di intrattenere, a mio modo di vedere, devi anche cambiare un po', anche un pochino, l'immaginario legato a quel tipo di storie. Guarda, tocchi proprio il tasto dolente, se io sono d'accordissimo con te, quando c'è una spesa di questo tipo, tu hai il dovere di raccontare qualcosa di diverso e cioè di cambiare la testa delle persone in qualche modo per quanto riguarda l'immaginario. Successe con Avatar, tanto per intenderci, insomma, adesso noi siamo convinti che Pandora esiste e ci siano alieni di 3 metri che camminano per Pandora. Difficilmente riusciremo a pensare che invece John Carter, simpatico soldato di fine 800, adesso stia su Marte, perché l'immaginario è un immaginario, secondo me, usato e abusato. Mi viene in mente che questo film prende il peggiore immaginario di Guerre Stellari, quello della seconda trilogia, lo mischia alla storia infinita con una trovata di sceneggiatura degna di Stargate, però la serie televisiva, e poi faccia uno shaker anche abbastanza disomogeneo che ti porta a un film, peraltro di 2 ore e un quarto, secondo me molto noioso. Credo che siano d'accordo gran parte degli spettatori italiani, perché questi primi giorni non stanno dando ragione, insomma, almeno in Italia, ai 250 milioni di euro spesi. Il problema è proprio che uno è il genere, cioè questo tipo di fantasy in Italia non funziona granché, e l'altro è assolutamente una mancanza di ritmo e, a mio parere, di fascino di gran parte dei personaggi, che lo lascia a livelli bassi. Ed è un peccato perché, come dicevi tu, 2 o 3 idee molto interessanti, tra cui il punto di partenza, c'erano e meritavano di essere sicuramente sviluppati molto meglio. Allora, adesso noi, parlato di John Carter, giochiamo, apriamo la prima finestra sul game e sentiamo la prima clip che dovete indovinare per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Sentiamo. La barman, le matin, un caffè, bruciano, e on va parler di ce qu'on allait faire la journée. I'm walking with angels. You are an angel, you are beautiful. T'as toujours l'impression que t'es plus qu'un être humain quand tu travailles avec Pinard. Ci sono un paio di dati fondamentali. Intanto, oggi non è un concorso per poliglotti, ma un po' sì, per cui se capite quello che dicono sarà importante, perché le tante lingue sono uno degli elementi di questo film. Poi ve ne aggiungerò qualcun altro, comunque ne sentirete altre. La Rosa Purpura @radio24.it, di che film si tratta per provare a vincere questo Blu-ray, un film davvero strepitoso. Più tardi un'altra possibilità. Allora, abbiamo un altro paio di minuti per parlare di Young Adult, l'ultima delle, diciamo, novità cinematografiche su cui vogliamo soffermarci questa settimana. In gergo si parla a volte di uscita tecnica. Cosa vuol dire? Vuol dire che escono poche copie e si trovano nei cinema, soprattutto delle grandi città. A volte sono criteri distributivi abbastanza discutibili, perché colpiscono film invece che meriterebbero molto più spazio. A capire, in questo caso Young Adult è appunto una di quelle che si chiamano uscite tecniche. Pensate che la regia di Jason Reitman, la sceneggiatura di Diablo Cody, l'attrice principale Charlize Theron, cosa deve succedere di più per far uscire un film in 100, 200, 300, 400 copie? Forse crederci. Boris, c'era da crederci a questo film? Guarda, devo dire che purtroppo faccio fatica a capire se è più colpa della pigrizia dei distributori italiani o del pubblico italiano, perché in tutta onestà, dovendo ragionare cinicamente, Young Adult è un film difficile per un pubblico sempre più televisivo. Non voglio attaccare chi va al cinema, però purtroppo quando parli di immaginario dobbiamo anche contare che spesso e volentieri l'immaginario si costruisce con quello che viene visto più spesso, e in Italia viene vista molto la televisione. E quindi in questo senso, forse da distributore, se non ho tanto coraggio, faccio anche bene a non distribuire Young Adult. Detto questo, Young Adult è un gran bel film. Uno, perché Jason Reitman e Diablo Cody, a mio parere, continuano nel loro processo di maturazione, lasciano sempre più da parte l'aspetto più di commedia, più facile della loro narrazione, ed entrano in questa quotidianità un po' diversa, un po' nerd, un po' strana, dei loro personaggi. In questo caso parliamo di una ghostwriter molto bella come Charlize Theron, ragazza di provincia, era stata una delle più belle, se non la più bella della città, che ha cercato, unica del suo entourage, fortuna nella metropoli. Fortuna l'ha anche trovata, ma non ha trovato la felicità. Così infelice, dopo un divorzio, che decide di andare a cercare di riconquistare il suo amore del liceo, che però è sposato e ha un figlio. È una storia anche banale, che Charlize Theron con la sua recitazione e Reitman e Cody con la loro narrazione rendono speciale perché Charlize Theron arriva al limite estremo della propria dignità, perché soffre indicibilmente, forse anche troppo, e allo stesso tempo perché c'è sempre comunque l'aspetto grottesco in loro, e questa, la sua amicizia con un ragazzo zoppo che era stato pestato perché è creduto gay, diventa il contraltare grottesco di tutto questo. È un film strano, è un film diverso, un film più che un romanzo di formazione, è un romanzo di deformazione che può essere fisica o psichica, però è un film che secondo me ti lascia con un'angoscia che forse ha fatto paura a chi doveva distribuirlo. Benvenuta all'Hampton Inn. Ha una prenotazione? No. Ha un cane nella borsa? No. Con un costo extra è permessa la presenza di piccoli animali. Bene, perché avrei un piccolo animale nella macchina. Ebbene, questa era una clip appunto di Young Adult. Con questo noi chiudiamo l'ampia parentesi sulle uscite cinematografiche del weekend e ringraziamo Boris Sollazzo. Ciao Boris. Grazie a te Franco, alla prossima settimana. E allora ci aspettano tre interviste adesso, due eventi e un grande personaggio. Cominciamo con il primo evento, torna Bergamo Film Meeting. Trentesima edizione, e quindi qui ci starebbe un happy birthday eccetera eccetera, perché il Bergamo Film Meeting negli ultimi anni insomma noi cinefili, come dire, amiamo alla follia questo piccolo festival, questo piccolo grande festival di Bergamo, che ti permette di vedere il cinema fra il più grande e bello che c'è e fra il più interessante che c'è da scoprire del presente e anche molto del passato. Negli ultimi anni spesso anche da questo programma avevamo raccontato le difficoltà economiche, che non sono solo quelle del Bergamo Film Meeting ma sono quelle di tanti festival italiani. Si temeva addirittura che una trentesima edizione non ci sarebbe stata, invece c'è, e anche con una specie di piccola luce in fondo al tunnel, e quindi siamo intanto contenti di poterne parlare. E poi è un'edizione davvero molto molto interessante, ma di questo voglio parlare con Angelo Signorelli, che è già con noi. Angelo Signorelli, deus ex machina del Bergamo Film Meeting, come stai Angelo? Bene, bene. Meglio degli anni scorsi, diciamo così, di questi tempi, no? Allora, parlaci un po' di questa edizione 2012, perché ho visto che al di là del concorso ci sono sezioni davvero molto molto interessanti e possibilità di riscoprire grandissimi film. Quest'anno vi siete buttati anche molto sul noir, si parla molto della donna come è stata raccontata al cinema negli anni 70, insomma, sezioni sempre molto intense. Sì, allora il noir è questa è la terza tappa di una ricognizione che noi abbiamo già fatto con la figura della Dark Lady e con lo psycho thriller l'anno scorso. Quest'anno abbiamo scelto questo percorso che abbiamo intitolato L'ombra del dubbio, dal film di Hitchcock che apre questa rassegna, e praticamente è un viaggio proprio nelle ambiguità più profonde del genere, quindi con film anche importanti, anche noti come Il sospetto di Hitchcock, e poi ci sono autori importanti, perché con questa tappa siamo arrivati a toccare un po' gli anni 50, quindi quando ormai il noir classico si sta un po' sciogliendo e sta trasferendo un po' i suoi stilemi e i suoi elementi più caratteristici anche nel film appunto che poi francese, inglese, che verrà negli anni successivi. Accanto a questo viaggio all'interno appunto del noir, che tra l'altro sarà affiancato anche a una mostra di grafica di Igot, che probabilmente molti conoscono perché è un disegnatore molto importante a livello europeo. Dicevo, accanto a questo viaggio nel noir c'è anche una perlustrazione negli anni 70 con questo ritratto d'autore, cioè con questi modi diversi che autori importanti come Buñuel, come Losey, come Romer, come Chabrol, come Malle hanno costruito questi ritratti di donne, a volte pescando nella letteratura, quindi utilizzando anche il film in costume, però ci parlano di figure femminili inquiete, di figure femminili tormentate, ma anche di ribellione, di volontà di uscire dagli schemi, di rompere anche certi certi pregiudizi e certe strutture sociali. E ricordiamo invece che sarà a Bergamo Fernando León de Aranoa, che invece è un regista super contemporaneo, classe 1968, però già molto molto affermato. Il suo Il lunedì al sole del 2002 è un film che lo ha consacrato a livello internazionale, tra l'altro con Javier Bardem, che vinse il premio per il miglior attore, il Goya, l'Oscar spagnolo per il miglior attore. Grandissimo film, ma lui di film belli ne ha fatti molti, e a Bergamo saranno tutti visibili. Abbiamo pochissimo tempo, 10-18 marzo, Bergamo Film Meeting, non perdetevelo se siete nei dintorni, perché è una vera goduria. Grazie Angelo Signorelli. Grazie a voi, buongiorno, e vi invito tutti a Bergamo Film Meeting. E allora, questo era il Bergamo Film Meeting, grazie Angelo Signorelli. Parliamo invece di Cartoomix. Cartoomix, salone del fumetto, dell'animazione, del collezionismo, insomma, ma soprattutto del fumetto di Milano, ormai un super classico dell'inizio della primavera o degli ultimi giorni dell'inverno. Anche quest'anno Cartoomix torna nei saloni della Fiera Milano City con la sua 19esima edizione, dal 16 al 18 di marzo, quindi durante il prossimo weekend, ma anticipato, questa è un po' una novità, da una succosa sezione di cinema di animazione di cui si è occupato Filippo Mazzarella, che è in collegamento con noi. Ciao Filippo. Ciao Franco. Allora, raccontaci un po' in breve questa idea e quali sono, insomma, i contenuti, i film, le chicche di questi giorni, di anteprima Cartoomix. Intanto faccio una microscopica rettifica: non è soltanto cinema di animazione, perché abbiamo proprio dato al Cartoomix una svolta di altra natura, incorporando all'interno di questa micro rassegna che porta verso la fiera anche degli appuntamenti, come dire, più cinefili e più tangenziali. Per esempio faccio Lady Oscar, ma faccio il film live action di Jacques Demy, quindi collego due mondi in qualche misura. Questa cosa si è resa necessaria dal fatto che l'anno scorso abbiamo praticamente tentato un 25enale di Dylan Dog sulla falsariga del Dylan Dog Horror Fest ed è andato benissimo. Allora quest'anno ci siamo concessi altri 4 giorni per fare da ponte appunto con Cartoomix e per creare una sorta di fuorisalone, perché non c'è soltanto un 4 giorni di proiezioni, incontri, anteprime e tutto quello che fa questo genere di cose all'Arcobaleno Film Center di Milano, ma abbiamo coinvolto anche la città. Io pensavo che aderissero una 15ina di esercizi di Porta Venezia, in quanto abbiamo tenuto come dire epicentro della cosa Corso Buenos Aires, invece hanno aderito più di 70 esercizi commerciali fra bar, ristoranti, negozi, che hanno tematizzato le loro vetrine, creato dei menu, creato degli happy hour, dei cocktail, delle feste a tema, eccetera. Il progetto era un po' questo. Io pensavo che non ci fosse una grande risonanza all'inizio, credevo che appunto fossero una 15ina magari quelli che aderivano, invece c'è stata un'adesione entusiastica. Se tanto mi dà tanto, l'anno 21 potremmo magari pensare di avere veramente una settimana di fuori salone di fumetto, come succede con il Salone del Mobile con altre manifestazioni. Insomma, diventerà un vero e proprio festival e sarà Cartoomix l'appendice di fumetto di questo. No, stiamo scherzando ovviamente. Filippo, 30 secondi per dirmi un film che davvero bisogna fare di tutto per andare a vedere all'Arcobaleno. Guarda, io credo che sia Mi ha il Migù di Jacques Rémy Girard, che 2 settimane fa era candidato all'Oscar come sceneggiatore e produttore per Un gatto a Parigi. È un film del 2009 precedente a questo, e di cui lui è anche regista. È un film straordinario, in qualche misura anche miyazakiano, in una animazione classica, ed è praticamente l'evento di chiusura della Week giovedì dalle 7 in avanti, con un incontro pubblico con lui a Milano e poi la proiezione del film. Ti avrei detto anche Pollo alle prugne di Marianne Satrapi, che è nostra ospite lunedì allo Wow Spazio Fumetto, che poi verrà l'Arcobaleno, ma ahimè i biglietti per quella serata sono già tutti completamente esauriti, e quindi sarà per un'altra volta. Allora, grazie, ricordatevi anche appunto questo appuntamento. Marianne Satrapi è sicuramente una grande animatrice ed è un personaggio culturalmente interessantissimo al Wow Spazio Fumetto in Viale Campania, e poi tutto il resto, i film, gli incontri, insomma c'è questo epicentro, come lo ha chiamato Filippo, del cinema arcobaleno di Milano. Grazie a Filippo Mazzarella. Noi a questo punto, prima di parlare di John Belushi, giochiamo con la seconda traccia del DVD game. Meeting Pina was like finding a language, finally. Before I didn't know how to talk, and then she suddenly gave me a way to express myself, a vocabulary. When I began, I was pretty shy. I still am. Un'altra lingua, un altro frammento di un film straordinario che si regge su queste interviste che parlano di questo personaggio, vi sto aiutando anche troppo, e sulla grandissima musica, ma insomma c'è una firma importante su questo film, un regista di grande livello, La Rosa Purpurea a @radio24.it, più tardi vi daremo un'altra possibilità. Signore, ti chiedo scusa se continuo a scocciarti, ma come vedi sono qui appeso a una roccia. Ora, non è che mi lamenti. Guarda! Perché... Guarda, è Bruno! Eh? È vivo! Ah! Bruno! E allora, il frammento che avete sentito era tratto da Chiamami Aquila ed era la voce, doppiata in italiano ovviamente, di John Belushi, morto il 5 marzo del 1982, ovvero 30 anni fa. Proprio questa settimana è ricorso il 30° anniversario della scomparsa di questo attore, cantante, comico di origine albanese, insomma il grande mattatore del Saturday Night Live, il comico che ci ha fatto impazzire con i Blues Brothers insieme a Dan Aykroyd in tanti film diretti soprattutto da John Landis insieme ai Blues Brothers, anche Animal House, ma abbiamo scelto questo frammento di Chiamami Aquila e scopriremo presto perché. Ne voglio parlare e ricordare purtroppo nella brevità dei tempi con Giovanni Savarese, che oltre a un amico e un collega è anche un grandissimo esperto di John Belushi, uno dei più grandi conoscitori della sua storia, della sua vita e della sua disfatta che lo ha portato a morire così giovane, appunto 30 anni fa. Ciao Giovanni. Ciao Franco, ciao a tutti. Allora, dicevamo, noi analizziamo un attimo la parte un po' più cinematografica di questo personaggio che era davvero a tutto tondo, a 360 gradi. Cosa ci rimane? Qual è il film, e forse proprio in questo ci possiamo legare a Chiamami Aquila, che lo ha rappresentato di più, cioè che ci ha dato di più la versione vera e non quella del mattatore di John Belushi? Beh, allora, intanto proprio ricollegandomi al personaggio di Ernie Suchak, cioè il protagonista di Continental Divide, cioè Chiamami Aquila in Italia. C'è un aneddoto, perché Jim Belushi, il fratello di John, ha detto che proprio il personaggio di Suchak in Chiamami Aquila gli ricorda di più in assoluto il fratello per quello che era, cioè il vero John Belushi. Nel film che avete citato, che avete fatto sentire in brano, c'è un Belushi sicuramente divertente, come era difficile che non fosse, bastava un'alzata di sopracciglio famosa del resto per far ridere, però è anche un tentativo di commedia romantica ambientata a metà tra le montagne rocciose, le aquile e la natura, l'altra metà in una città fondamentale per Belushi come Chicago. Il giornalista Suchak, giornalista d'inchiesta, vive in una Chicago che è poi quella di Belushi. Non è sicuramente il film più significativo, anche se è difficile dire su quattro film da protagonista o coprotagonista quale sia il più rappresentativo. Questo è particolare, sicuramente i due film diretti da Landis, cioè Animal House che hai citato e The Blues Brothers, sono quelli in cui il mattatore sì, ma anche il mattatore quasi da film muto, cioè tutto uno sguardo, un movimento, una postura che fa ridere quasi senza parlare, anzi in Blues Brothers in particolare quasi del tutto, insomma. Giovanni, c'era anche un film che poi è diventato un grande successo e chissà cosa sarebbe stato con John Belushi, a cui John stava lavorando prima di morire. No, allora in realtà il film in cui avremmo voluto vedere Belushi, l'avremmo visto se non fosse morto in quel marzo a Los Angeles nello Chateau Marmont, erano due film che stava scrivendo contemporaneamente Dan Aykroyd, il suo amico del cuore e collega di tanti anni in Saturday Night Live, in particolare Ghostbusters, la parte che poi Bill Murray interpretò era scritta da John Belushi, e anche Una poltrona per due, che era un progetto che già Dan Aykroyd aveva in gran parte elaborato, anche quello era pensato non per Eddie Murphy ma proprio per John Belushi. Se la storia si facesse, anche quella cinematografica, con i Se, sono i due film in cui veramente avremmo voluto vedere Belushi, nonostante poi siano diventati, con due interpreti grandiosi, due successi. Un rimpianto che ci rimarrà per sempre, come la sua scomparsa. Grazie Giovanni, a risentirci. Grazie a voi. Ed eccoci di nuovo insieme alla Rosa Purpura, rush finale dedicato al cinema da vedere in casa, prima di tutto la televisione, prima di tutto le scelte della redazione di Phil TV per i palinsesti televisivi della prossima settimana. Siamo in collegamento con Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco e bentornati con le segnalazioni di Phil TV. Sta settimana abbiamo fatto una coppia, una strana coppia, Fritz Lang e Fernando Di Leo. Cominciamo con Fritz Lang perché domenica 11 marzo alle 17:30 sulla 7D, quindi poco dopo la fine della Rosa Purpura, per chi ascolta la replica della domenica, c'è un film di Fritz Lang tutto da scoprire, Dietro la porta chiusa. Esattamente, questa settimana due segnalazioni in nero, possiamo dire. Iniziamo con Dietro la porta chiusa, domenica alle 17:30 sulla 7D, Celia sposa Mark, un miliardario con ossessioni omicide, che ricostruisce in casa sua stanze che sono state luogo di delitti. Dietro una porta c'è la coppia perfetta della camera della moglie. Lang affronta con rigore e minuzia un caso clinico psicoanalitico, ma lo arricchisce con un linguaggio cinematografico quasi onirico ai limiti del fiabesco e del surreale. È un noir che sposa Freud e Hitchcock, il cinema classico, l'espressionismo, la psicoanalisi, la poesia, ed è percorso da un fascino perverso e perturbante che ne fa una delle migliori opere americane di Fritz Lang e purtroppo tra quelle meno celebrate. E questo quindi l'appuntamento, ricordiamo, Dietro la porta chiusa di Fritz Lang, domenica 11 marzo sulla 7D alle 17:30. Invece il lunedì, quindi il giorno dopo alle 7 del mattino, puntate o la sveglia o il videoregistratore, c'è, non è mica la prima volta, ma è sempre un gran bel vedere, Milano Calibro 9 di Ferdinando Di Leo. Esattamente, Milano Calibro 9, lunedì alle 7 di mattina su Rai Movie, ispirato molto liberamente al romanzo di Giorgio Cebbanenko. Milano Calibro 9 è il più riuscito ed esaltante film di genere poliziesco italiano, quel genere che si solite chiamare il poliziottesco, e di cui Fernando Di Leo è il maggiore esponente. Un regolamento di conti che fa tabula rasa di ogni speranza in questo film, che è un film durissimo, violento, premio però anche di un gusto pop nella composizione dell'immagine e nella colonna sonora famosissima di Bakalov, e capace di disegnare caratteri indelebili e al contempo di fotografare una società così corrotta da far estinguere gli eroi. Epocale Gastone Moschini e Barbara Boucher che balla sui tavoli sotto le note musicali di Bakalov. Milano Calibro 9 quindi su Rai Movie alle 7 del mattino di lunedì 12 marzo. Grazie Giulio. Grazie a te Franco, alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. Terza parte del DVD Game. Quante volte ho danzato Caffè Müller insieme a Pina? Quante volte ho visto i suoi capelli, la sua schiena, le sue braccia? Quante volte ad occhi chiusi l'ho sentita e sapevo che lei sentiva tutti noi? Anche chiusi, i suoi occhi potevano vedere tutto. Insomma, vi abbiamo tenuto alla fine la rivelazione, quindi non dico più niente, avete sentito parlare di danza, avete sentito un nome, c'è un grande regista, vi ho detto, alle spalle. La Rosa Purpurea, @radio24.it per provare a vincere il Blu-ray di questo straordinario capolavoro che mette insieme appunto cinema e danza. Ricordiamo invece chi ha vinto e con cosa abbiamo giocato la settimana scorsa. Tu che cosa fai? Guido. Le limousine? No, guido nei film. Fai inseguimenti e roba del genere? Sì. Non è pericoloso. Di capolavoro in capolavoro, la settimana scorsa avevamo giocato con Drive di Nicholas Winding Refn, uno dei più bei film in assoluto usciti lo scorso anno e negli ultimi anni, con uno straordinario ruolo di Ryan Gosling e con un'epica e una poetica davvero notevoli, che adesso arriva in un video. Hanno vinto Daniele Santoro di Brindisi e Giuseppe Milano di Nerviano, provincia di Milano. Riceveranno il film Drive, di cui parliamo con il nostro Claudio Pofi, che è in collegamento con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, allora, il meraviglioso film di Nicholas Winding Refn è arrivato in un video, c'è il DVD, noi al solito consigliamo il Blu-ray, l'unico capace di restituire l'intensa cinematografia anche nelle lunghe sequenze notturne. Doppia traccia DTS multicanale, alta risoluzione sia in italiano che in inglese, sono entrambi di eccellente resa, Come extra segnalo interviste al cast e regista e due brevi approfondimenti sulle sequenze di stunt e le riprese a Los Angeles. Una straordinaria scena che io vi consiglio, se l'avete visto, se lo dovete vedere in un video, è davvero straordinaria, la scena quasi all'inizio di una sorta di de-inseguimento, cioè un inseguimento che non è un inseguimento, perché il nostro pilota, anziché scappare, si nasconde, si ferma. Dove gli altri accelererebbero, lui stoppa e parcheggia. È davvero una scena indimenticabile, a mio modo di vedere. Recensioni, novità in videoteca, ancora Mission Impossible in una nuova salsa. Dimitri, abbiamo un piccolo problema. Quando si cerca un eroe, bisogna partire dalla cosa di cui ogni eroe ha bisogno, un cattivo. Per questo, cercando il nostro eroe, Bellerofonte, abbiamo creato un mostro. Chimera. La clip che vi abbiamo appena proposto è relativa a Mission Impossible 2 di John Woo, presente all'interno del cofanetto Mission Impossible Extreme Blu-ray Trilogy di Universal, che include i primi tre film della saga in alta definizione, quello di Brian De Palma del 96 e il terzo di J.J. Abrams, a nostro avviso il migliore grazie alla vincente e intelligente sceneggiatura. Già di buon livello a partire dal film più vecchio, la qualità video cresce ulteriormente con le due successive opere, con una codifica video più performante rispetto alla speculare edizione americana. L'audio Dolby Digital in italiano è identico all'edizione DVD, ma anche qui differenza con la versione USA con i primi due film che beneficiano, almeno per l'inglese, della traccia DTS ad alta risoluzione. Gli extra sono già stati tutti pubblicati con numerosi documentari e approfondimenti sulla lavorazione, penalizzato il terzo film che, a parte il commento del regista assieme a Tom Cruise, vede concentrati i supplementi su un secondo Blu-ray presente nella versione singolo film. Parliamo adesso invece di un regista sempre un po' atipico come Gus Van Sant. La sua ultima opera uscita al cinema in Italia è Restless. Dove vai a scuola, Enoch? Da nessuna parte. Come mai? Beh, vedi, Elizabeth, si tratta di un'altra lunga storia e quindi diciamo che è stato per un malinteso. Ah, ok, vediamo se ho capito bene. Sei uno che si imbuca ai funerali, senza macchina, ritirato da scuola e con un amico morto. Suona abbastanza grottesco a sentirlo così tutto insieme. Annabelle è una giovane dolce malata terminale di cancro che ama la natura. Enoch, un ragazzo isolatosi dal mondo, sopravvissuto all'incidente che gli ha portato via i genitori e che vagabonda per funerali in cerca di risposte sulla sua condizione. Uniti dall'amore, Annabelle ed Enoch si frequentano più che possono, stretti da un legame che vorrebbe sconfiggere l'ineluttabile destino di lei. Gus Van Sant dirige un film complesso tra malinconia e pudore. Da Sony Pictures Home Entertainment, l'edizione home video, DVD e Blu-ray, quest'ultimo di eccellente resa con traccia DTS e alta risoluzione italiana e inglese. Tra gli extra segnaliamo una curiosa versione muta del film, ovvero il regista, dopo aver filmato le scene stabilite dal copione, ha ripreso le stesse ma senza dialoghi, sorta di versione alternativa dell'opera, e inoltre ci sono scene eliminate e approfondimenti sui personaggi. E questo allora era l'ultimo consiglio in videoteca, Restless, grazie a Claudio Pofi. Ciao, a presto. Le note della nostra sigla finale ci dicono che è arrivata la fine della corsa per questa puntata della Rosa Purpurea. L'appuntamento alla prossima settimana, sarà un altro weekend non intensissimo, ma con questa magnifica presenza di Ferzanot Petek, che sicuramente almeno sul botteghino dovrebbe farsi sentire. Ne parleremo invece in termini cinematografici. Grazie a Giorgio De Luca che ci ha assistito in redazione, a Peter Bescapè che ha condotto con la consueta sapienza la regia. Un saluto da Franco D'Assisti, appuntamento la prossima settimana.